Radio 24 Reportage. Il progetto e il disagio. L'architettura dei quartieri difficili di Raffaella Calandra. Superato l'invisibile fossato, gli sguardi non sono più nei visi che incontri, ma negli occhi che percepisci, dietro le imposte delle case. I rumori non sono più un vociare misto al consueto traffico, ma o un silenzio funereo o rombi assordanti di corse in auto, misti a echi di acrobazie su due ruote. Quando si arriva in periferia, è il respiro stesso della città che cambia, è il ritmo della vita normale che sparisce. E come nella scalata di una vetta, mano a mano che si sale, alberi e verde diminuiscono sempre più, così nel vuoto assolato della cima spiccano le cattedrali di cemento. È un grande dolore, perché è come vedere il figlio che è diventato gobbo, insomma, cosa vuol farci? Però anche con l'impotenza di non sapere come fare, più che dare la propria disponibilità, al di là di questo non si può fare. Zona espansione nord, abbreviazione Z. Evoca il lessico della medicina e del sentimento Vittorio Gregotti per descrivere le sue reazioni alla vista oggi dello Zen, da lui progettato 40 anni fa, quella zona espansione nord di Palermo assurta insieme alle vie di Scampia e poco altro ancora a simbolo di una periferia degenerata. Un ghetto anche claustrofobico dove non arrivano gli echi della città normale, come vi abbiamo raccontato in un ciclo di reportage da nord a sud, reportage che trovate sul nostro sito. L'arrivo in periferia è scandito il più delle volte dal pugno nello stomaco davanti a queste cattedrali di cemento, condensato spesso anche di devianze sociali di vario tipo. E allora, come distinto, viene da chiedersi: è la repressione della bellezza la causa anche delle piaghe sociali? La parola agli architetti. L'olandese Rem Koolhaas, vincitore nel 2000 di una sorta di Nobel dell'architettura, invita proprio a ripartire dal Corviale di Roma, lo Zen di Palermo e le vele di Napoli, da guardare con ritrovata attenzione. E chi li ha progettati? Cosa risponde Vittorio Gregotti? Credo che sono tentativi questi di vincere l'idea di quartiere come un luogo che è sostanzialmente solo un quartiere monofunzionale dove si va solo a dormire, e che è un quartiere in generale monoclasse, cioè quartieri dove, per ragioni ovvie, solo la classe delle persone meno agiate, diciamo, hanno la possibilità di trovare un'abitazione. Superare questa idea, che in tentativi diversi, per esempio anche Corviale ha tentato di fare, e noi abbiamo fatto con lo Zen, ma soprattutto adesso più di recente con il quartiere Bicocca e con lavori che stiamo facendo a Roma analoghi, è questa idea di fare delle aree esterne una specie di centro storico esterno, nel senso di avere le caratteristiche di multifunzionalità, una popolazione con diversi livelli sociali, e poi in più magari di avere qualche cosa di speciale, una funzione particolare come un grande teatro, un'università, un ospedale importante, qualche cosa di diverso, che costringono in qualche modo a mantenere un rapporto tra quella zona e il resto della città come una specie di rapporto di scambio, non essere degli elementi laterali un pochino dimenticati e che hanno tutti i difetti dei quartieri di questa natura. Difetti che naturalmente di solito sono accentuati dal fatto che in particolare in Italia anche i servizi elementari e le infrastrutture in generale poi avvengono molto più tardi, si costruiscono dopo aver fatto gli edifici, contrariamente ad altri paesi d'Europa. Io faccio l'esperienza per esempio della Cina, dove in effetti prima si fanno le strade, prima si piantano gli alberi e poi si fanno le abitazioni e i quartieri. Per una progettazione futura, certo, ma per quei quartieri come quelli che lei ha ricordato, già esistenti e così anche fortemente compromessi in alcune realtà, soprattutto Napoli, Palermo, dove c'è poi il fattore malavita che lì è determinante, una riqualificazione a questo punto attraverso quali strade dovrebbe partire? A Napoli si era avviata la demolizione di una vela, poi il resto è rimasto fermo. Lei è, diciamo, in genere abbastanza scettico nei confronti delle demolizioni. Qual è la sua ricetta? Devo dire che per Napoli sono colpevole della demolizione di una vela. Bassolino, quando era ancora sindaco di Napoli, mi aveva chiamato per vedere cosa era possibile fare per trasformare una vela. Allora ho fatto un progetto per la trasformazione anche funzionale di una vela, perché doveva andarci la sede della sicurezza, la sicurezza nazionale. Poi alla fine si è rivelato che costava più del doppio che non demolire e rifare. Come negli altri casi del Corviale dello Zen, purtroppo questi non sono mai stati finiti. La vela su cui io ho lavorato non era mai riuscito ad avere né le fognature né gli ascensori, ecco. Aveva un insufficiente isolamento esterno perché non era stata finita. E nel caso del Corviale o nel caso dello Zen, anche lì, nel caso dello Zen, ci sono passati 25 anni prima che ci facessero le fognature e ci facessero energia elettrica. Non è mai stata completata, non sono mai stati fatti i servizi, non ci sono mai state fatte le scuole, gli spazi collettivi e neanche gli elementi di trasporto. Io le faccio un esempio inglese. Ci sono stati due quartieri fatti nell'immediato dopoguerra in Inghilterra, uno da London County Council e un altro dagli architetti Smithson in Inghilterra. L'uno, condotto fino in fondo, abitato ancora adesso, è uno splendido quartiere dove naturalmente dopo tanti anni si è anche articolata naturalmente quasi la società al proprio interno. L'altro è stato un disastro assoluto perché non è stato finito e solo 10 anni fa è stato rimesso in ordine e adesso funziona anche quello. Non dico con questo che gli architetti non abbiano dal punto di vista della concezione le loro colpe, ma se si aggiungono a queste colpe quelle delle istituzioni, le questioni diventano proprio irrimediabili. Lei aveva parlato anche di un secondo progetto per una riqualificazione proprio per lo Zen, così come per Napoli il trasferimento della facoltà di medicina a Scampia. A che punto sono questi due progetti? Dunque, per quanto riguarda il problema di Napoli, effettivamente si è demolito, adesso si sta costruendo. Ci sono voluti molti anni, per almeno l'edificio è in corso di costruzione. Per quanto riguarda lo Zen non c'è stato niente da fare. In un certo punto anche loro mi avevano chiamato 2 o 3 anni fa, un po' di più, per avere la possibilità. Io ho detto che ero disponibile a fare questo lavoro, mi sarebbe stato interessante finirlo, poi dopo non ho mai più saputo niente. Beh, intanto terminarlo, diciamo, dei vari isolati ce ne sono stati fatti meno della metà. Uno solo di questi isolati è stato occupato dai legittimi destinatari, tutto il resto è stato occupato abusivamente. Uno di questi è stato incendiato e quindi, come tale, diciamo, più disastroso di così non si poteva immaginare. Non distruzione dunque, ma rivalutazione, come a Parigi ad esempio, dove i degradati quartieri sono spesso affidati ai giovani architetti per tornare a nuova vita. La soluzione non sta nella demolizione per Gregotti, ma nella mescolanza che porti la città fuori dalle sue mura. Questo lo dico sempre, io il quartiere Zen lo rifarei uguale, lo farei come era stato progettato, perché allora il progetto del 69, già allora noi avevamo pensato per esempio di metterci anche delle attività, delle piccole attività artigianali, delle cose di questa natura, eppure questo non è stato fatto. Voglio dire, il quartiere Zen era un quartiere che era nato su due principi: uno, che doveva essere un quartiere di immigrazione dalle campagne e quindi anche tendeva a cercare di ritrovare all'interno dell'isolato la propria comunità, ecco, o l'idea della piccola comunità di una dimensione più piccola, questo era abbastanza importante. Il secondo era il modello della ricostruzione settecentesca dei grandi villaggi fatti villaggi, insomma, dopo il terremoto nel 700, che poi ha funzionato tutto sommato, basta, come dire, essere ragionevoli. Quindi, più che essere quartieri utopici, forse Corviale lo è un po' di più, perché lo è nel senso che tende in un unico edificio a concentrare tutte le strutture anche di servizio, mentre invece il nostro era un quartiere abbastanza convenzionale da questo punto di vista, non era così complicato né da costruire né da gestire. Ma sa, di fronte all'impossibilità abbiamo fatto il progetto esecutivo di una sola isola, un solo isolato. Gli altri poi se ne sono fatti per conto loro, non abbiamo avuto la direzione dei lavori, non abbiamo avuto nessun tipo di controllo. Quindi l'obiezione che viene da fare è che, ad esempio, nelle vele di Napoli l'idea della riproposizione dell'economia del vicolo si è trasformata in un fortino inaccessibile, che ha aumentato ulteriormente il fossato, diciamo, ideale che faceva di questo quartiere un'isola rispetto al resto della città, per cui sia a Napoli che a Palermo, anche nel lessico le persone dicono scendiamo a Napoli, scendiamo a Palermo. Uno dei sacerdoti storici che ho incontrato a Napoli mi ha detto: fin dal momento in cui è stato progettato Scampia, Avevo segnalato che, conoscendo la gente che purtroppo ci abita, che qui, in mancanza di un'adeguata manutenzione e controllo, cosa che purtroppo si è drammaticamente verificata, sarebbe stato il fortino di tutti i boss del quartiere. Ripensare le periferie italiane significa forse anche una forma di progettazione partecipativa. In questo caso è un problema di tipo politico che è di un'altra natura, sulla quale sono assolutamente d'accordo. Io non voto mai per i tipi che sono favorevoli a queste cose, voto per delle altre persone, perdendo in generale, ma voto per un cambiamento. Il discorso politico sussiste. Se lei non collabora, come c'è stato fatto in Italia con la mafia da parte di molti politici per tanti anni, che la sopporta, che non la reprime, che lascia che tutto questo proceda, è evidente che queste cose succedono. Ecco, però io quando faccio l'architetto non posso, come dire, al di là di un certo limite, posso fare una proposta che mi sembra una proposta accettabile, ragionevole, non cara, costruibile, tutto quello che vuole, ma io sul piano della politica non posso agire in modo diretto. Faccio l'esempio di Milano, per fare un esempio a rovescio. Milano, voglio dire, la bicocca, ci sono dentro tante case popolari, ma non vuol dire che questo pure ha funzionato. È vero che in casa della bicocca c'è una prevalenza di quella mescolanza funzionale molto forte, perché c'è, diciamo, naturalmente mescolato privato e pubblico, e quindi immediatamente due livelli diversi di società, perché ci sono università, società che hanno le loro sedi, cioè la mescolanza funzionale diventa un elemento fondamentale. Nel caso degli istituti autonomi case popolari questa non era neanche pensabile, voglio dire, anche quelli che hanno tentato minimamente di prevederla poi non sono riusciti a realizzarla. Sì, però secondo lei non c'è anche, per esempio, alla bicocca, che è un esempio di tutt'altro tipo, il problema che alle 5 del pomeriggio si spopola? Sì, certo che c'è, ci sono 30.000 studenti e almeno 20.000 persone che ci lavorano, e solamente circa tra le 8 e le 10.000 che ci abitano. Questo però è abbastanza naturale, i centri storici lo subiscono ancora molto di più questo fatto. La City, dopo una certa ora, non c'è più nessuno, però per questo non è che non funzioni. Anche qui il problema è di riuscire a tenere un equilibrio tra le due cose. Un equilibrio che salta ancor più facilmente quando a metterci lo zampino è la malavita organizzata. Così non mancò neanche la violenza durante la costruzione dello Zen. Zen che ora, nel 40° anniversario, in cerca come di una nuova verginità, si fa chiamare zona San Filippo Neri. Quando abbiamo fatto il pezzo dell'università, del Dipartimento di Scienze dell'Università, uno dei nostri, erano tre diversi esecutori, c'erano in presa di Palermo, dove hanno trovato il capo dell'impresa morto con un bel colpo di pistola all'interno della zona. E poi una volta ero insieme con un imprenditore di Palermo, quando abbiamo tentato, dopo aver fatto colazione, di finire di pagare, ci hanno detto che era già pagato. È un tipico messaggio, insomma. Da Palermo a Napoli, all'ombra delle vele, oggi più che l'idea originaria di riprodurre l'economia del vicolo, è la mano della camorra ad essere evidente tra quei ballatoi pericolanti. Altri erano i disegni per Scampia, come vedremo nella seconda parte, in cui andremo anche in giro per il mondo, tra le periferie delle città, e vedremo le strade volta per volta scelte per affrontare il costante problema delle case.